Eccoci qua dunque, vi dicevo, giornata particolare, dunque sono molte le testate, il Sole 24 Ore, Corriere della Sera, Repubblica, La Stampa, Avvenire eccetera eccetera, che non sono in edicola per lo sciopero appunto dei poligrafici, altri sono invece regolarmente in vendita e così come regolarmente presenti sul web sono invece le altre maggiori testate italiane. Ma insomma, vediamo cosa c'è, partiamo questa mattina dal Giornale. Il Giornale dedica la sua apertura a un titolo che è piuttosto esplicito: l'elemosina di Monti, ritoccata la riforma delle pensioni, un contentino ai sindacati, ma su tasse e lavoro il governo tira dritto. E poi richiama l'evoluzione dei rapporti Berlusconi-Lega. Sul tavolo, scrive il quotidiano di Sallusti, sul tavolo di Berlusconi il rebus Lega, mentre Bossi corteggia Tremonti. Ecco il rebus Lega, che se guardiamo subito invece la posizione espressa chiaramente dalla Padania, quindi dal quotidiano della Lega, leggiamo così: con Berlusconi è finita, sta con i comunisti. Bossi da Milano dice il governo andrà a picco, Napolitano si assuma le sue responsabilità, euro caput, la Padania si farà la sua moneta, la manovra per togliere la pensione agli anziani, Tremonti verrà con noi. Ecco, tutto questo, come scrive nella prima pagina del quotidiano Alessandro Montanari, pronuncia un ruvido addio all'ex alleato Silvio Berlusconi, che è andato con i comunisti, questo è un virgolettato, prefigura la nascita di una moneta della Padania e predice la rapida caduta del governo Monti. È un Umberto Bossi dunque davvero vulcanico quello che affronta i giornalisti dopo aver assistito e salutato come l'inizio dell'Europa dei popoli al convegno sulle macroregioni sanitarie organizzato a Milano dall'assessore leghista Bresciani. La prima bacchettata, forse la più dura ma non certo l'unica, il senatore la riserva al Cavaliere e dice: Lassi, Bossi, Berlusconi, taglia corto, non c'è più, adesso ognuno sta a casa sua e Berlusconi sta con i comunisti. Insomma, una specie quasi di contrappasso berlusconiani visto da Bossi, visto l'evocazione frequente dei comunisti, e Bossi è proprio quella che rinfaccia questa mattina attraverso le pagine della Padania al suo alleato storico. Dunque questa è una notizia centrale della politica su cui tornano anche altre testate, ma vediamo anche altri titoli. Allora, Riformista e pensioni, modifiche in arrivo. Nello stesso tempo anche continua il pressing sindacale, dunque l'incontro con Bersani dopo lo sciopero CGIL e CISL e UIL, soddisfatte del risultato della giornata, lunedì è prevista una nuova manifestazione. C'è spazio anche sulle prime pagine per il tema, naturalmente, il grande tema dei vitalizi, e per il Riformista nel taglio centrale, dalla Mussolini a Cosentino, ecco i dead vitalizi walking. Addirittura qui si scomoda appunto la famosa frase del dead man walking nel braccio della morte, ma insomma, drammatizzando un po', possiamo forse sottolinearlo, e la situazione, la lista dei parlamentari penalizzati che vede in primo piano e anche in primo piano fotografico Alessandra Mussolini, quelli che il Riformista definisce bruciati sul traguardo, i deputati depensionati. Vediamo ancora, il Manifesto è fine spettacolo, invece si riferisce al drammatico crollo di Trieste, un operaio ventenne, studente e lavoratore muore schiacciato sotto la struttura che avrebbe dovuto ospitare il concerto di Jovanotti a Trieste, 7 feriti, il cantante sotto shock. Nel taglio centrale, piazze del lavoro respinte dal governo, e anche il richiamo al tema del maxi emendamento del governo, con diciamo attenzione al tema dell'editoria. Infatti per il Manifesto oggi il maxi emendamento, ma non terrà conto delle modifiche alla norma ammazza giornali. E nelle pagine interne leggiamo appunto in riferimento all'articolo 29,3 giornali appesi a un filo sul pozzo senza fondo. Adesso, scrive Carla Lania, la sopravvivenza di oltre 100 testate no profit, cooperative di partito e di idee affidate agli emendamenti messi a punto dai partiti che, intervenendo sul comma ammazza giornali, quello appunto che vi ho citato un momento fa, rimetterebbero le cose a posto. Insomma, tempi di crisi e difficoltà anche per i finanziamenti. All'editoria, la Prealpina, il regalo di Monti ai pensionati, è un regalo virgolettato. Anzi, tra virgolette, in questo caso, il ministro Fornero annuncia un emendamento per alzare il tetto, oltre cui sarà abolita l'indicizzazione. Ogni cosa a suo tempo, il tempo sta scadendo. Così si è espressa ieri il ministro del welfare, l'avete sentita ampiamente nei GR di Radio 24. La trattativa dunque prosegue nelle commissioni, cercando un punto di avvicinamento che per il quotidiano del Partito Democratico Europa è di fatto già arrivato. Cambiata la manovra, il PD passa su casa e pensioni. Insomma, il quotidiano del PD si accredita un risultato in questa trattativa, per quanto il termine sia abbastanza, appunto, inappropriato. Detto ciò, lo sciopero, prova di unità dei sindacati, questo vi ricordo è Europa, oggi alla Camera il giorno delle modifiche. Ancora nel centropagina il tema europeo sottostante, ma come evidentemente molto presente da venerdì, dalla trattativa notturna, molto si fa di notte in questo periodo di incontri, trattative, e mi riferisco a quella che ha portato di fatto Londra fuori dall'accordo per appunto la politica fiscale. Cameron prova a ricucire ma Clegg lascia vuota la sedia a Londra. Insomma, freddo gelo su questo fronte, poi approfondiremo. Infine, anche così per questa prima nostra parte, vi segnalo Libero, arriva la stangata bis, l'Istat non diffonde le stime preliminari sul PIL per carità di patria, pare che i dati siano in caduta verticale, se è vero ci aspetta un altro salasso di almeno 20 miliardi in primavera. E a centropagina gli onorevoli che difendono lo stipendio, in questo caso il disegno è dedicato a Rosi Bindi, Rosi la Giovanna d'Arco della casta. Ancora terra, ora sciopero a oltranza, e soprattutto nel quotidiano ecologista a centropagina al dopo Durban c'è un Babbo Natale che fa surf in questo che viene definito dal titolo principale caldo Natale. Il mancato accordo alla conferenza ONU sul clima ci costa caro, solo in pieno inverno la metà dei ghiacciai montuosi già sciolti e almeno 100 pesci alieni nel Mediterraneo. Torniamo tra poco. 24 mattino. minuti ancora, un buongiorno da Gigi Donelli al microfono questa mattina, da Peter Bescapè in regia, da Viola Bottoni in assistenza. Dunque, vi dicevo che oggi, come dire, l'edicola è incompleta, non lo è invece il web sul fronte degli aggiornamenti, quindi sole24ore.com, in arrivo i correttivi sulle pensioni, dunque il tema principale di queste giornate di intervento. Leggiamo sulla prima del Sole: le liberalizzazioni slittano al 2013, il giorno dello sciopero, naturalmente la cronaca, e Camusso, segretario CGIL, che dice che lo sciopero può, quello di ieri, può non essere l'ultimo. Bersani incontrerà i sindacati. A proposito degli interventi in corso, vi leggo un passaggio di uno degli approfondimenti che trovate questa mattina online, riguarda appunto l'intervento correttivo sulle pensioni. Eccolo qua, a proposito di click. Attuazione dell'impatto della riforma delle pensioni sui lavoratori precoci, la famosa, direi, ormai classe del 52 di cui si è parlato parecchio in questi giorni, esenzione dalla stretta sulle province dell'amministrazione a statuto speciale e di quelle che andranno ad elezioni nella prossima primavera. Anche questi due ritocchi dovrebbero confluire nell'emendamento finale alla manovra Salva Italia, in cui dovrebbero essere inseriti correttivi sull'IMU per la prima casa, sull'indicizzazione valorizzazione degli assegni pensionistici, insomma correttivi che si annunciano soft per la perdurante difficoltà a reperire nuove risorse. Questo è soltanto uno dei molti approfondimenti. Gli altri temi principali che trovate sul sole24ore.com questa mattina ci riportano a Bossi, che di cui abbiamo letto tra giornale e Padania. Bossi che dice: finite l'euro, la Padania batterà la sua moneta, e il congelamento, a voler essere, come dire, molto politici, dell'alleanza, alleanza lontana, ora sta con i comunisti, riferito a Berlusconi, ma anche il nuovo, appunto, invito a procedere rapidamente da parte della Presidente di Confindustria Marcegaglia, la situazione peggiora dell'Europa, non sono arrivate le risposte che ci aspettavamo. A proposito di Europa, e in questo caso non solo di Unione Europea, vi segnalo invece sul Foglio, che trovate in edicola, c'è spazio per un avvenimento che in altre circostanze magari avrebbe attirato più attenzione. Mi riferisco a quello che sta accadendo in Russia dopo elezioni legislative per la Duma e in vista di quelle presidenziali. Perché Putin non può ignorare i ceti urbani insoddisfatti in piazza? I 30.000 di Bolotnaya chi sono? 30.000 di Bolotnaya sono quelli che appunto sono scesi nelle strade, fredde strade moscovite, all'indomani delle elezioni legislative per protestare, soprattutto perché queste 30.000 così identificati rappresentano quei ceti urbani insoddisfatti che lo stesso primo ministro, ex presidente e probabilmente futuro presidente della Federazione Russa ha indicato come tali. Insomma, la quantità si è trasformata in qualità, dice, con i 30.000 manifestanti di Piazza Bolotnaya, scrive Massimo Boffa sul Foglio. Il rapporto tra potere politico e società civile in Russia è entrato in una fase nuova che il Cremlino dovrà valutare attentamente. Certo, erano presenti alle manifestazioni comunisti e nazionalisti estremi, ma non erano loro a dare il tono alla protesta. Per la prima volta sono scesi in piazza quelli che Vladislav Surkov, eminenza grigia, ideologo degli anni di Vladimir Putin, ha chiamato i ceti urbani insoddisfatti. E chi sono? Sono i liberi professionisti, sono gli studenti, gli artisti, le vedette televisive, l'intelligenza moscovita, ben rappresentata sul palco da scrittori come Boris Akunin, Lyudmila Yuritskaya e dal giornalista Leonid Parfienov. Insomma, quei russi che magari leggiamo anche nei giornali, nei libri, e che sempre di più frequentano negozi e spiagge, luoghi turistici italiani non solo, e che in fondo sono sempre rimasti una silenziosissima minoranza all'interno del paese, anche se importante e rappresentativa. Ecco, su questa evoluzione il Foglio, come vi dicevo, dedica un approfondimento, e così si affianca anche a molte testate internazionali che tra ieri e oggi appunto stanno approfondendo questi sviluppi. Ancora così, usiamo questi minuti per segnalarvi alcuni titoli dal mondo, anzi Le Monde in particolare, quindi il quotidiano francese parigino che viene pubblicato nel tardo pomeriggio, dedica inevitabilmente la sua prima pagina a una grande foto del presidente Sarkozy che intervista in esclusiva. E il titolo della lunga intervista, che si trova a pagina 2-3 del quotidiano, è un'altra Europa quella che sta per nascere. L'intervista è molto lunga e non abbiamo tempo di leggere, ma vi segnalo solo un passaggio. Il giornalista, il direttore del Monde, gli chiede: è legittimo allo stato attuale pensare che il Regno Unito resti all'interno del mercato unico dopo le divisioni, eccetera, eccetera? E su questo Sarkozy, che come sapete è stato anche protagonista di un discreto gelo nei confronti del collega Cameron nelle ultime giornate, dice: noi abbiamo bisogno, l'Europa ha bisogno della Gran Bretagna, sarebbe un grande impoverimento per tutti di vedere la partenza del Regno Unito dal complesso dell'Unione Europea, cosa che per fortuna non è d'attualità. Altro titolo che vi segnalo a proposito abbiamo citato il Regno Unito, dal Regno Unito The Times, un titolo piuttosto inquietante: Cash Crisis at Leading Hospital Puts Lives at Risk. Quindi la crisi di contante in alcuni grandi leading hospital mette le vite a rischio. Le vite sono messe a rischio in alcuni ospedali britannici a causa della crisi finanziaria che ha esposto, che ha accresciuto l'ineguaglianza del trattamento, del trattamento appunto sanitario. Così un rapporto che appunto il Times pubblica in prima pagina lo denuncia, una situazione molto pericolosa, una situazione di diseguaglianza resa ancora più critica dalla crisi finanziaria. Sempre sul Times una fotografia che racconta invece di uno degli eroi di questi mesi di protesta in Siria, Syria Doctor Hero Killed on Turkey Border, quindi uno dei fondatori dell'organizzazione Damascus Doctors, i dottori di Damasco, che è un network medico di sostegno a chi protesta contro il regime Assad da mesi, è stato ucciso al confine con la Turchia, confine della Turchia che è zona molto calda ormai da settimane. La Turchia ha più volte espresso anche la propria posizione di sostegno alla protesta. Insomma, molti i temi internazionali dalle prime pagine. Tra i tanti ve ne segnalo un paio, uno arriva dalla Cina ed è una notizia che arriva dal Shanghai Times ed è decisamente curiosa. Pare infatti che ci sia una vera e propria situazione di crisi nel principale parco della città, principale parco che corrisponde allo spazio dello zoo locale. Cosa accade? Accade che ogni giorno 15.000 persone si raccolgano per fare la ginnastica mattutina e gli animali dello zoo sono assolutamente in crisi, e quindi la comunità di Shanghai ha dovuto interviene proprio spiegando che non è più possibile permettere alla popolazione svolgere in quel luogo il rituale molto diffuso in Cina della ginnastica mattutina, rituale anche bellissimo a cui si può assistere in molte città del grande paese. Un'altra segnalazione invece che ci riporta in Europa è dal The Foreigner, un giornale norvegese, che ci mostra una fotografia, il ministro Jens Stoltenberg, il primo ministro della Norvegia, sorridente al polo sud, accanto alla bandiera del suo paese. Una immagine che ci ricorda un evento storico di cui parliamo tra qualche momento con un nostro ospite. Prima però sentiamo insieme come vanno le cose sulle strade italiane. 7:45 minuti, 50 secondi in questo momento. Vi anticipavo dunque un'immagine tra tutte quelle che i quotidiani internazionali portano in queste ore attraverso il web, quella del primo ministro norvegese Stoltenberg, che molto soddisfatto, insomma, viene fotografato in un enorme spazio bianco accanto alla bandiera nazionale. È in questo modo che la Norvegia celebra un evento storico, un evento che ci riporta 100 anni fa, domani per essere precisi, dunque la conquista del Polo Sud da parte di Roald Amundsen, forse per molti è stato definito l'ultima grande esplorazione del Novecento sul nostro pianeta, appunto. Poi si è cominciato un'altra avventura che era quella dell'esplorazione spaziale, magari possiamo aggiungere quella che 50 anni dopo avrebbe portato invece Hilary Tenzing Norgay sulla cima dell'Everest, ma sicuramente con la grande avventura polare, insomma, si è completato un ciclo. Ne avremmo voluto parlare tra qualche istante, ma abbiamo, mi dicono dalla regia, qualche problema di connessione telefonica. Ecco, in fondo, anche questo è un effetto come dire, mai da escludere delle tecnologie, ma siamo certi che riusciremo a recuperare, e se non lo facciamo oggi lo faremo domattina, di fatto sarà il giorno dell'anniversario con il nostro ospite. Io allora approfitto per dare qualche momento in più per completare un po' il percorso della stampa internazionale. Torno su Le Monde, vi ho citato prima l'intervista esclusiva al Presidente della Repubblica francese Sarkozy, ma ci sono anche parecchi altri spunti. Uno in particolare riguarda Areva. Chi è il vero nuovo padrone di Areva? Si chiede Le Monde. Ora, Areva magari non è a tutti familiare, ma di fatto è il più grosso gestore francese e nazionale strategico di combustibile e materiali nucleari. Ecco, per i grandi colossi, in questo caso delle tecnologie appunto così delicate e strategiche, sono tempi complessi, e la stessa Areva ha cambiato la sua guida sei mesi fa. Luc Orsel è diventato il nuovo responsabile, il nuovo CEO della società, peraltro in un momento particolarmente complicato. E dunque nel lungo articolo di due pagine che racconta il profilo di Luc Orsel si sceglie il titolo dello sminatore, che sono le appunto le complessità che sono sulla strada della grande azienda. Sei mesi dopo la sua nomina, il nuovo padrone di Areva presenta lunedì 12 dicembre al Consiglio d'amministrazione un piano per raddrizzare la situazione, una impresa in situazione di forte degrado dopo lo shock di Fukushima. Intanto dalla regia mi segnalano che siamo riusciti a collegarci con il nostro ospite, si tratta di Petter Johannessen, diplomatico, esploratore, pronipote di Roald Amundsen. Buongiorno Johannessen, benvenuto qui a Radio 24. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Allora, come mai il primo ministro, l'ho detto insomma, il primo ministro che si scomoda ad arrivare fino al Polo Sud per un evento che per la Norvegia a 100 anni di distanza è ancora molto importante? Ma è straordinario, no? È straordinario che il primo ministro della Norvegia decide di andare al Polo Sud, in quanto Roald Amundsen è un eroe nazionale, era uno dei modi più forti, più importanti per la Norvegia celebrare questo raggiungimento del Polo Sud, che è stata, come lei giustamente ha detto, forse l'ultima grande impresa dell'esplorazione terrestre. Ecco, Amundsen è una figura tra l'altro legata anche alla storia degli italiani, chi ha, come dire, a memoria anche filmografica ricorderà la sua scomparsa misteriosa e tragica nel tentativo di contribuire al salvataggio degli uomini, appunto, del dirigibile Italia, ma è veramente una figura, come dire, di attualità. Che cosa rappresenta oggi, secondo lei, nella comunità, anche nella società norvegese, un risultato che, appunto, lo ricordiamo, a 100 anni domani? Ci sono tre valori importanti che Amundsen ha lasciato in eredità. Una, la preparazione tecnologica per una spedizione. Questo è un valore importante per chiunque fa una spedizione. Prepararsi bene, tecnologicamente all'avanguardia, e ovviamente una solidarietà umana, perché Amundsen ha dato molto ai suoi uomini, peraltro l'unico, credo, grande esploratore che è riuscito a riportare a casa tutti i suoi membri degli equipaggi nelle quattro grandi esplorazioni che ha fatto: il passaggio nord-est, il passaggio nord-ovest, il polo sud e il polo nord nel 1926 a bordo del dirigibile Norge, insieme o comandato quell'anno da Umberto Nobile. Ecco, a proposito della spedizione che ricordiamo, magari a questa mi permetto, aggiungiamo Shackleton a proposito di quelli che riportano a casa tutti i suoi compagni, tutti i compagni d'avventura, ma quella corsa al polo fu in quel caso una grande sfida tra Norvegia e Regno Unito, una sfida anche drammatica che vede il secondo perdere il titolo ma soprattutto la vita. Robert Scott fu sfortunato da un lato e fu leggermente o molto presuntuoso dall'altro, fece degli errori imperdonabili. Immaginiamoci che lui decise di raggiungere il Polo Sud senza sapere sciare, senza aver insegnato a sciare i suoi collaboratori, decise di andare al Polo Sud con dei cavalli siberiani che ovviamente sprofondavano nelle rocce, nella neve e nei crepacci del polo. Poi non aveva programmato bene le varie basi e Robert Scott fu fatalmente sconfitto, sconfitta peraltro che lui descrive in un modo così straordinario nel diario che si lascia nella tenda a 11 miglia, 17-18 chilometri dal deposito, il One Ton Deposit che doveva dargli la salvezza. La salvezza. Ecco, in conclusione, Johannessen, che cosa, in che modo si celebra anche in Italia, in Norvegia, ma so appunto anche in Italia, questa grande figura e questo exploit di 100 anni fa? Noi norvegesi, attraverso e grazie all'aiuto dell'ambasciata di Norvegia in Italia, organizziamo delle mostre su Amundsen. Una mostra l'abbiamo, la stiamo organizzando a Milano, che inizia peraltro domani, proprio il giorno delle celebrazioni, al Museo delle Scienze Naturali in via Palestro. Poi a Trieste, dopodomani, incomincia una mostra di Amundsen. Andiamo a Fermo, dove il 16 incomincia una mostra di Amundsen, una mostra molto bella, insieme a un'associazione che si chiama Circolo Polare, e organizziamo poi per il 13 gennaio una grande ripetizione della mostra di Nansen e Amundsen. Nansen era un altro grande personaggio norvegese, a Torino. Insomma, un programma di celebrazioni, Nansen, premio Nobel, un'altra figura straordinaria dell'esplorazione e della politica negli anni appunto della Grande Guerra. Io ringrazio Peter Johannessen di essere stato con noi, ci ha dato anche lo spunto per, come dire, evadere un momento dall'attualità, ma vedo già Dario Ceccarelli in regia che ci riporta tra un istante nel pieno dell'attualità con GR24. Noi torniamo tra non molto, come vi ho detto, faremo un approfondimento sul tema del clima e poi torneremo a parlare di quanto accaduto alla comunità Rom di Torino. A più tardi.